Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi indaga ancora nella importante serie di pubblicazioni che hanno seguito l'anno rodariano che viene prorogato in questo inizio 2021, naturalmente causa pandemia che ha limitato molta iniziativa sul grande narratore di Omegna. Oggi parliamo con Alberto Scanzi, autore di C'era due volte Gianni Rodari. Alberto Scanzi, presidente dell'Associazione Circolo Gramsci di Bergamo, autore di questo volume che dice cose nuove e diverse rispetto al materiale tanto pubblicato in precedenza. A seguire invece, a proposito di filastrocche, poesie, racconti, disegni, andiamo ad analizzare questo libro che raccoglie proprio filastrocche, poesie, disegni, racconti di bambini al tempo del lockdown, così si chiama il testo, edito da Pendragon, un volume pubblicato dall'UNICEF che va ad indagare su tutto il disagio psicologico dei minori al tempo del lockdown e dell'emergenza sanitaria. Dopo un piccolo stacco musicale, Morena Moretti intervista Alberto Scanzi di C'era due volte Gianni Rodari. Davanti il libro C'era due volte Gianni Rodari con sottotitolo L'omino di vetro che raccontava le ingiustizie del mondo, e Alberto Scanzi in linea con noi ha utilizzato, diciamo, quasi due titoli che fanno ovviamente riferimento a due racconti molto belli di Gianni Rodari e che già ci introducono al libro che Alberto Scanzi ha scritto da poco e che è di recente uscito. Perché ha scelto questi titoli per il suo libro? Una bella domanda, perché mi consente di entrare subito nel vivo della nostra chiacchierata. C'era due volte Gianni Rodari perché Gianni Rodari non muore mai. Come tutti i bambini iniziano la storia, dicono c'era una volta e questa storia si rimanda. Gianni Rodari c'è due volte perché ritorna sempre. E il sottotitolo perché stringevo il focus su quello che è stato tutta l'opera di Gianni Rodari e il suo impegno, la sua vita sostanzialmente. L'omino di vetro che rappresenta un po' la fragilità, il vetro è fragile, però il vetro è anche trasparente, quindi la fragilità e trasparenza di questo Gianni Rodari che si è impegnato tutta la vita a raccontare le ingiustizie del mondo, a fare in modo che il mondo potesse migliorare, soprattutto per i bambini. E però Gianni Rodari forse c'è anche 3, 4, 5 volte, come lei mi ha detto è un uomo poliedrico, quindi non c'è solo due volte, c'è tante, perché appunto lo ricordiamo come giornalista, narratore per bambini, ma anche divulgatore, si occupa di scuole, è un pedagogista, un intellettuale, eccetera, quindi è tante volte. Cerchiamo di capire che uomo era Rodari. Allora, quel c'era due volte è periodico, è un modo di ripetere continuamente, quindi c'era due volte esattamente all'infinito, condivido. È intellettuale tutto tondo? A tutto tondo, sì, quello che chiamavo una volta organico, e proprio nell'eccezione anche gramsciana però, perché lui considera sempre che la cultura, la letteratura non deve essere lontana dalla storia, dalla vita di tutti i giorni. Gianni Rodari nasce come giornalista, ovvero lui voleva fare il giornalista e poi casualmente si è ritrovato in questo mondo del racconto per l'infanzia, è corretto? Diciamo che lui non è che volesse fare il giornalista, si è trovato a fare il giornalista anche lì per caso, sostanzialmente. Allora, alla fine della guerra, il primo lavoro, lui ha un impegno all'interno del Partito Comunista, ha fatto la Resistenza, e quindi lui alla fine della guerra trova un lavoro all'Unità, alla Cronaca di Milano, invitato da Davide Laiolo a lavorare, visto che già lavorava su alcuni giornali della Federazione del PC di Varese. E quindi anche per un, come si può dire, per una questione di imponderabile, scrive il suo primo articolo su un fatto grave che era accaduto a Savona, di una nave che affonda con tanti bambini che muoiono. Scrive lui perché affossugato in quel momento non riesce ad andare sul posto, e da allora diventa giornalista dell'Unità. Poi il mestiere di giornalista per lui è importantissimo, ha sempre fatto giornalista. Tutte le sue favole, fra l'altro, le sue filastrocche, le sue storie, sono scritte sui giornali, sono scritte sull'Unità, sono scritte su Pioniere, sono scritte su Vie Nuove, sono scritte su Paese Sera. Quindi le sue favole, le sue cose nascono lì, poi a un certo punto vengono estrapolate, diventano volume e a loro volta diventano titoli di nuove fiabe, così vanno avanti. Però Gianni Rodari è comunque un uomo del Partito Comunista e viene chiamato a Roma, quindi lui naturalmente è di fatto un funzionario all'inizio della sua carriera. Viene chiamato a Roma per questo progetto, che è il progetto del Pioniere, del giornalino dell'Associazione Pionieri Italiani, ed è un progetto pedagogico. La scelta di Rodari come viene fatta? Come dicevo prima, lui comincia a fare questo lavoro e sul Pioniere viene a lavorare, sul Pioniere gli si dà questo impegno così pedagogico educativo. Lui dice: perché mi hanno scelto, perché era l'unico che aveva fatto il maestro, e quindi mi dicono ti tocca a te. E quindi riprende questo impegno e lo fa in maniera, io direi, proprio innovativa. Diciamo che il Partito Comunista aveva bisogno in quel momento di contrapporre alla morale, a modo tale della Democrazia Cristiana e del clero, una nuova visione pedagogica ed educativa verso i ragazzi, e quindi si manda a Rodari a fare questo giornalino che è proprio pieno di grandissime esperienze. Lui trova tutta una forma di dialogo con i bambini, lui li ascolta, lui dialoga, lui risponde ai bambini e poi propone cose importanti, propone delle storie, propone la storia d'Italia, propone dei personaggi importanti, Partacus per dire, propone la storia dell'antifascismo in Italia. Parla anche di sport, naturalmente, perché così coinvolge anche i ragazzi, parla di coppi, parla di personaggi che sono importanti, parla del grande Torino, le coinvolge poi in filastrocche, in testi teatrali, usa il cortile come il momento importante dove i bambini possono socializzare, possono trovarsi, e lui li invita, scrivete, riprendete i miei testi, parlate, fate le operine, come si diceva allora, fate del teatro fra di voi, che è la cosa importante. Liberare il cortile per Rodari significava dire liberare il cortile, vendere il giornalino Il Pioniere. L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, dammi parlare, Teresa, tu. Follia, l'ho incontrata per la via, disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò Tere, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. Teresa, no! Non mi sparare, Teresa, lascia perdere! Ah, no! Teresa, io ti prego, non sparare! Alberto Scanzi, Gianni Rodari, sperimenta sua pedagogia in questo giornalino e poi più avanti scriverà la grammatica della fantasia, che è diventato il suo testo a cui si riferiscono appunto tutta una serie di maestri, insegnanti, pedagogisti, insomma è diventato un testo molto importante anche a livello internazionale. Ci puoi dire come si evolve, come nasce la grammatica della fantasia, da quale percorso di Rodari? Rodari è sempre impegnato nelle sue storie, insomma, è al centro il bambino. Il bambino che è contro le ingiustizie del mondo, il bambino che è importante. Il mondo della scuola e nello stesso tempo anche le utopie e l'ottimismo della volontà. Però la materia prima di cui Rodari è organizzato, questa materia prima sono la fantasia e l'immaginazione. Lui dice: per parlare con i bambini bisogna avere fantasia e immaginazione, anzi un pizzico più di loro per stare un passo avanti, perché sennò loro ti supereranno. La grammatica della fantasia nasce da tutte le esperienze che lui fa, sia a scuola, gli anni in cui ha fatto il maestro, e sia proprio con il rapporto che ha attraverso il Pioniere, attraverso i giornali, questo rapporto di dialogo con i bambini. Quindi tutta questa sua immaginazione, a un certo punto, dopo che fa una riunione importante nell'Emilia, a Reggio Emilia nel 72, visto che qualcuno aveva stenografato tutti i suoi discorsi, da queste pagine lui mette insieme questo libro, La grammatica della fantasia, che chiamiamolo saggio, sostanzialmente lui poi non vuole neanche chiamarlo saggio. Dice che sono soltanto delle proposte che servono agli educatori, ai genitori e ai bambini per riappropriarsi della fantasia, dell'immaginario, e quindi questo sasso che va nello stagno, che fonda tutte queste ordine concentriche, per cui da un'idea ne nasce un'altra e poi va a fondo, e quindi anche lì smuove questo, la terra, i pesci, poi dalla terra anche dal fondo si muove la polvere, quindi anche questo rismuove, quindi è tutto un sommovimento, per cui la fantasia è questa cosa. Questo testo è stato molto utile anche nella scuola italiana, anche per cambiare proprio il progetto educativo della scuola pubblica, che era una scuola che veniva dal fascismo e che poi negli anni dopo la guerra c'è stato appunto un processo democratico della scuola. Gianni Rodari ha contribuito poi a questo processo anche con i suoi testi. A un certo punto, nella grammatica della fantasia, per spiegare meglio il pensiero che aveva Gianni Rodari, dice: Marx non era un fantisticatore, ma aveva una grande, una fortissima immaginazione. E questo lo dice al capitolo 44 della grammatica della fantasia. È chiaro che nel mondo della scuola, a un certo punto, Rodari ci mette tutto il suo impegno, proprio partendo dal fatto che al centro ci doveva essere il bambino e bisognava aiutare il bambino nella sua formazione, ma anche nel crescere. Bisogna fare come il nonno di Lenin, diceva Gianni Rodari, perché il nonno di Lenin, una volta in una casa in campagna, aveva i tre nipoti, uno era quello che sarebbe diventato Lenin, e questi saltavano dalla finestra per uscire a giocare dalla casa, uscivano dalla finestra e rientravano in casa dalla finestra. Cosa ha fatto il nonno di Lenin? Visto che questo era come un gioco, ha secondato i ragazzi e gli ha messo una panchetta affinché riuscissero a entrare e uscire. Quindi bisogna fare come il nonno di Lenin, aiutare i bambini. Nel mondo della scuola si è sempre battuto il nostro favoloso Gianni, e ha fatto anche insieme tutte le battaglie con il Partito Comunista per la scuola unica, che l'ha poi fatta negli anni 60, incrementando, portando più gente alla scuola. Poi per abolire le scuole differenziali nel 77, per esempio. E anche questa dava poi anche agli insegnanti un nuovo modo di lavorare, quindi c'erano sia i bambini più disadattati, più handicappati rispetto agli altri, bisognava lavorare insieme, quindi anche questo è stato un fatto molto positivo. Poi si è battuto anche per: non dobbiamo avere asili, ma dobbiamo avere delle scuole per i bambini. Quindi anche questa è stata una grande taglia che Gianni Rodari fece per la scuola. Poi scrive su Paese Sera, per cui sempre i giornali teneva non solo la cronaca ma anche il mondo della scuola. Anche con lo Scooby-Doo si può fare scuola. Si ha inventato quel metodo insieme a Mario Rodi e ad altri del movimento cooperativo educativo, che è quello della tipografia e del fare il giornalino di classe. E qui era importante, perché si doveva imparare a fare tipografi e nello stesso tempo bisogna cominciare a fare le bozze, quindi è una questione di tecnica, ma poi anche di redazione, decidere cosa parlare, come fare, farlo insieme. E quindi questo era un modo per crescere. E abbiamo dei bellissimi esempi di questo suo modo di lavorare. E poi c'è quella sua meravigliosa poesia, Una scuola grande come il mondo. E questa è bellissima, in cui si dice che la scuola non è certamente dietro un video come adesso, ma è tutta una cosa importante in cui c'è il genitore, l'insegnante, i rapporti con i bambini. C'è una scuola. Fin qui l'intervista di Moreno Moretti ad Alberto Scanzi. La seconda parte dell'intervista la sentiremo la settimana ventura. Adesso invece, come sempre grazie all'attivissima redazione di Yucali, parliamo di questo testo, I bambini al tempo del lockdown, sogni ed emozioni, edito da Pendragon. È un volume che contiene poesie, disegni e racconti che fanno conoscere sogni, pensieri, disagi, emozioni e speranze dei bambini chiusi in casa durante questa emergenza sanitaria. Bambini privati della loro quotidianità, ma non della loro fantasia creativa, anche grazie al lavoro dei docenti che, sebbene a distanza, li hanno accompagnati nel percorso didattico ed educativo. Un libro che fa parte del progetto Scuola Amica dell'UNICEF. E allora è con Raffaele Pignone, presidente del comitato UNICEF di Bologna, abbiamo approfondito la questione sempre con Simona e Sara di Yucali. Un libro che è significativamente preceduto da una prefazione del cardinale Zuppi di Bologna, che ci racconta a chi è destinato il libro, un testo che ci viene subito presentato dallo stesso Raffaele Pignone. È un testo che raccoglie le testimonianze dei bambini e dei ragazzi, ma non è un libro da bambini e da ragazzi, perché fa emergere ciò che vi è di più vero e profondo dell'animo umano e che gli adulti forse rischiano di dimenticare. Ecco per cui il cardinale invita proprio i grandi, noi, nonni, i genitori, a leggere questo libro, perché possiamo capire meglio i nostri bambini. Io le dico sinceramente, quando a fine maggio in alcune scuole di Bologna mi hanno mandato delle poesie, dei racconti, dei disegni, beh, io leggendo le poesie e guardando i disegni sono rimasto affascinato dalla loro bellezza, sorpreso dal loro pensiero semplice e intenso, ma anche divertente, perché certo, leggendo alcuni di questi brani scritti da ragazzi che vogliono combattere con l'amore, ma anche con le armi, il virus. Cioè loro, ecco un'altra cosa che emerge leggendo questo libro, questi racconti dei ragazzi, che gli mancano le maestre, le scuole, gli amici, e anche un po' i nonni, perché io sono un nonno, questo mi ha fatto piacere, insomma, non i genitori, perché vivevano in casa con i genitori. Ecco, ma però ci racconta soprattutto poi come è nato il libro, come è nata l'idea di pubblicarlo. Ma le dico sinceramente, proprio leggendo questi racconti, queste poesie, noi dovevamo diffonderli, cioè non poteva essere rimasto nei cassetti. E fino a oggi ci sono libri scritti da grandi scienziati sul virus, psicologi, scrittori, ma nessuno ha mai dato voce ai bambini, ai ragazzi, che cosa hanno visto, che cosa hanno vissuto in quei 3 mesi chiusi in casa. Ecco, era nostro dovere come UNICEF renderli, farli conoscere. In una delle introduzioni al libro del professor Dandarini sottolinea da storico come la testimonianza raccolte sono una fonte preziosa di un periodo così particolare della nostra storia. A suo avviso, cosa testimonieranno agli storici del futuro o ai bambini di domani? Ma io proprio per questo penso che questo libro rimarrà nella storia, perché è unico, per carità, ci sono tanti che hanno fatto dei raccolti, messo anche sul sito, ma un libro così organizzato non ce ne sono. Rimane la storia, perché cosa veramente questi bambini hanno sofferto leggendoli, ma anche cosa secondo me hanno capito, e hanno capito tante cose: l'amore verso gli amici e verso gli insegnanti. E mi permette di che un'altra cosa importante che emerge è che le scuole sono state vicine ai bambini, e così le maestre, cioè le nostre scuole hanno fatto dei miracoli in questi 3 mesi, perché nessuno era organizzato, nessuno immaginava una cosa di questo genere, per cui è stato tutto un giorno dopo giorno ricostruire un rapporto con i nostri bambini. La lotta che da sempre l'UNICEF conduce in tutto il mondo sull'accesso all'istruzione. Sì. E sembrava che nel nostro paese il problema fosse marginale. Invece la didattica a distanza ha mostrato come la realtà italiana sia fatta di disuguaglianze. Ecco, mi interessava sapere dai vostri dati UNICEF come stanno le cose oggi rispetto al diritto all'istruzione in questa seconda ondata. Ecco, le dico sinceramente che se guardiamo nel mondo è una cosa tragica. Dall'ONU è partito un allarme, una cosa che oggi l'UNICEF di raccogliere 6 miliardi di euro per i bambini del mondo. Ci sono più di 260 milioni di bambini che non vanno a scuola nel mondo, 260 milioni, e più di 1 miliardo di bambini che non ha rapporti con la scuola. Noi in Italia l'UNICEF si è impegnata anche con il governo, si è impegnata anche con le scuole, si è impegnata anche economicamente a raccogliere fondi a sostegno dei bambini più poveri. Ecco un altro dato, che il ricavato di questo libro va a beneficio dei bambini nel mondo e anche per i nostri bambini in Italia, perché non dimentichiamolo che anche da noi in Italia ci sono molti bambini che non hanno accesso a un computer, che non hanno la disponibilità di un telefonino, per cui prendere i rapporti con la scuola è difficile. Io sono contento che le scuole elementari e le scuole medie non siano chiuse, perché il rapporto tra gli amici, il rapporto con la scuola è fondamentale. L'UNICEF ha lanciato questo allarme oggi proprio finché scade il 31 dicembre, raccolta straordinaria di fondi per 190 milioni di bambini che soffrono la fame. Di questi 47 sono proprio alla sopravvivenza, 47 milioni. E questa pandemia si calcola che aumenteranno di 6-7 milioni. Ecco, la questione dei bambini nel mondo oggi è tragica, per cui regalando questo libro si farà contenti sicuramente i nostri bambini o i nostri adulti che lo leggeranno, si farà contenti anche i bambini che soffrono. Tutte le prefazioni al libro sottolineano il bisogno che gli adulti ascoltino le esigenze dei bambini in questo momento di disagio. Dai racconti, sì. Qual è la cosa che è più mancata a bimbi e bimbe durante il lockdown? Glielo anche un po' del prima, quello che è mancato è proprio il rapporto con gli amici. Il rapporto umano, ecco, potremmo dirlo, perché il rapporto anche con le maestre, con gli insegnanti, c'è la stare insieme agli altri. Ecco, questo che emerge un po' in il rapporto umano, che spesso non ci pensiamo, non ci avevamo mai pensato quando stavamo bene. Ecco, dopo sono emerse queste esigenze, questo rapporto calore, amore, anche verso i nonni e verso gli insegnanti. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore